Respiro. Buon pomeriggio ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti a Respiro, io sono Cristina Carpinelli, oggi parliamo di risparmio energetico e di energie rinnovabili, concetti che tutti conosciamo ormai molto bene, ma in questa puntata vogliamo capire come si stanno muovendo le imprese e se anche loro hanno capito bene di cosa si parla quando si affronta il tema delle rinnovabili. Cioè, la chiave di lettura di questa puntata è: le imprese italiane hanno capito che sul fronte delle rinnovabili la miniera è davvero d'oro ed è ancora carica? Prima di partire ed entrare nel vivo della puntata, vi ricordiamo che Radio 24 partecipa alla Fiera del Libro di Torino. Siamo a Torino con uno studio radiofonico, ci trovate al Padiglione 2, ma soprattutto trovate anche quest'anno grande spazio legato ai libri che di ambiente, natura, ecologia parlano. Tra gli ospiti più attesi noi vi segnaliamo l'arrivo di Vandana Shiva, l'indiana in prima fila nella lotta contro la povertà e i disastri della globalizzazione, che presenta il suo nuovo libro Ritorno alla Terra. La presenteranno Carlo Petrini ed Ermanno Olmi. Oggi pomeriggio, per chi ci sente in replica domenica, stiamo parlando di sabato, alle 17 ci sarà l'incontro Consumo Critico, una faticaccia, una tavola rotonda con Francesco Gesualdi e Maurizio Marulli, che hanno scritto Guida al Consumo Critico, edito da EMI, Cristina Gabetti, che ha scritto Tentativi di Ecocondotta, edito da Rizzoli, Stefania Cecchetti, che ha scritto I mostri nel mio frigorifero, cosa si nasconde in merendine, piatti pronti, salumi, bibite, yogurt e sughi, edito da Terre di Mezzo. Noi ci occupiamo dunque di energia, dicevamo. L'Unione Europea, per promuovere la sostenibilità energetica, ha finanziato la creazione di agenzie regionali, provinciali, comunali, finalizzate alla promozione presso gli enti locali di sistemi ad alta efficienza energetica e di tecnologie alimentate da fonti rinnovabili. In Italia le agenzie per l'energia sono più di 40, ma a che punto siamo? E soprattutto quanto e come l'impresa, il sistema delle imprese italiane si sta muovendo? Sappiamo che parlare di energie rinnovabili, come dicevamo, significa anche guadagno, posti di lavoro, sviluppo, ricerca, insomma un motore nuovo. Allora vediamo qual è la situazione generale. Partiamo dall'accordo siglato da Invitalia, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa, e il gestore dei servizi elettrici. Un accordo per favorire l'incremento delle rinnovabili, ma soprattutto gli investimenti esteri in Italia nel settore delle energie rinnovabili. Allora diamo il benvenuto a Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia. Arcuri, ci dà intanto qualche elemento in più su questo accordo? Il nostro paese non è in una posizione ragguardevole nella classifica delle nazioni capaci di attrarre investimenti diretti esteri. Le modalità con le quali noi stiamo provando a recuperare posizioni in questa classifica, nonostante la crisi che tutti sappiamo attraversare il mondo, sono molteplici. Una delle più importanti e delle più praticate è quella di fare accordi con soggetti istituzionali che abbiano specifiche competenze in dei settori industriali strategici per lo sviluppo del nostro paese e quindi capaci di essere arene dove attrarre investimenti dall'estero. Il settore energetico e delle energie rinnovabili in particolare è uno di questi. Il GSE è il soggetto protagonista dal punto di vista istituzionale di questo settore. Questa è la spiegazione di massima dell'accordo. Ma quali sono i contenuti dell'accordo? I contenuti dell'accordo sono che nell'ambito delle nostre attività ordinarie di attrazione degli investimenti cerchiamo di proporre ad investitori esteri, anche con il contributo del GSE, ipotesi di investimenti o ipotesi di idee o ipotesi di agevolazioni per investire nel settore delle energie rinnovabili in Italia, o viceversa, quando raccogliamo istanze, richieste, possibilità da parte di investitori esteri, le facciamo maturare insieme al GSE, che dà un contributo settoriale che noi ovviamente non possiamo né dobbiamo avere. Ecco, dottor Arcuri, lei diceva proprio all'inizio di questa intervista che l'Italia sta facendo un po' fatica nel settore degli investimenti, cioè fa fatica a portare a casa, diciamo, gli stranieri. Ma perché? Quali sono i freni? I problemi principali che noi abbiamo per attrarre investimenti diretti dall'estero hanno a che fare con la complessità del nostro apparato burocratico amministrativo, che si declina in troppi soggetti fatti che servono a rendere un investimento possibile e troppi passaggi amministrativi che necessitano per rendere un investimento possibile. Ma lei parla di investimenti grossi, cioè state parlando di progetti grossi o di progetti anche piccoli? Cioè questa realtà che sta descrivendo lei si trova dappertutto, diciamo, proprio nel sistema italiano? La cattiva gestione del tempo è il problema principale che ostacola gli stranieri che vogliono arrivare ad investire direttamente in Italia, indipendentemente, mi faccia dire, dalle dimensioni degli investimenti. Noi dobbiamo essere più semplici e più veloci di quanto fino ad oggi siamo stati capaci di essere. È possibile già fotografare un'Italia che si sta muovendo con gli stranieri nel settore delle rinnovabili? Voi avete già degli esempi da portare? L'Italia sicuramente sta facendo uno sforzo nel settore energetico in generale e in quello delle energie rinnovabili in particolare. Questo sforzo ha a che fare con una posizione evidente del governo che cerca di riequilibrare le nostre fonti di approvvigionamento e di recuperare anni di immobilismo o di scelte strategiche un po' troppo rigide. In questo ovviamente siamo un territorio interessante per soggetti che già all'estero hanno avuto modo di maturare esperienze e competenze. In questo senso noi abbiamo già alcune ipotesi di, come li chiamiamo noi, di contratti di programma, ovvero alcune ipotesi di investimenti da parte di soggetti che stiamo approcciando, affrontando, in qualche caso istruendo. E quali sono? Ci può fare degli esempi più ovviamente, dettagliati? Ovviamente ho piacere di fare degli esempi rispetto al fatto, per esempio, che questi soggetti vogliono investire più o meno in varie parti del nostro paese e prevalentemente nel Mezzogiorno, hanno a che fare fondamentalmente con il fotovoltaico, ma noi cerchiamo di far sì che essi possano crescere e aumentare anche attraverso la nostra attività e anche attraverso questo accordo. Volevo chiederle anche questo, dal suo osservatorio si può dire che c'è un'Italia, appunto c'è un'Italia che ha descritto prima, che disperde l'energia, disperde il tempo, disperde fondamentalmente un capitale preziosissimo, ma c'è anche a noi di Respiro è parsa appunto esistente quest'Italia anche delle imprese che ha capito bene che sull'ambiente non è solo una questione di essere ambientalisti o meno, ma è anche questione di fare profitto, di far aumentare i posti di lavoro. Esiste questa realtà in Italia? Assolutamente sì, guardi, l'Italia è molto migliore di come noi spesso la descriviamo. Noi siamo bravissimi a raccontare i nostri punti di debolezza, siamo meno bravi a raccontare le cose positive che succedono a noi. Una delle cose positive è quella che dice lei: esiste un intero tessuto di imprese o anche di individui che stanno lavorando nella traiettoria che lei descrive, e cioè che hanno compreso che il settore dell'energia in generale, delle rinnovabili in particolare, è un'arena competitiva dal quale trarre valore, occupazione e profitto, assolutamente sì. Un'altra storia che vede la collaborazione tra pubblico e privato è quella che viene segnalata a Catania, dove un'impresa, la Cofatec, ha siglato un contratto per la gestione di servizi energetici dell'università. Saranno realizzati 47.000 metri quadrati di pannelli solari fotovoltaici e anche un sistema di telecontrollo per lo spegnimento intelligente del sistema di illuminazione e anche dei computer, in modo di fatto da abbattere la spesa energetica. Un investimento che permetterà un taglio di emissioni di CO2 per 2.970 tonnellate l'anno. Ma come è stato fatto e quanto è costato ci racconta tutto il direttore generale di Cofatec, l'ingegner Tomasino. Il contratto grosso modo è un contratto Cofatec, che è la filiale di branche servizi energia del gruppo Gas de France Suez, e per quanto riguarda il contratto dell'Università di Catania ha stipulato un contratto del valore di 48 milioni di euro, di cui 30 per quanto riguarda Cofatec, essendo in un'associazione impresa con altri due partner, che prevede praticamente presso i 78 edifici dell'Università di Catania servizi di fornitura di energia elettrica energetica, ottimizzazione energetica e manutenzione impiantistica per circa 20 anni. Diciamo che in questo contratto, che appunto avrà una durata piuttosto lunga per consentire una vera messa a punto su tutta la parte impiantistica, Copatec realizzerà degli impianti di telecontrollo per il risparmio sia dalla parte dell'illuminazione e lo spegnimento di tutte le apparecchiature che consumano energia, per il condizionamento, il computer e così via, per abbattere la spesa energetica in maniera importante, oltre che ovviamente fare una messa a norma in generale e l'installazione di lampade ad alta efficienza energetica sempre per ottimizzare i consumi. All'interno del discorso dello sviluppo delle energie rinnovabili, l'obiettivo di Copatec in questo contratto sarà quello di migliorare il bilancio energetico dell'Università di Catania attraverso la realizzazione e l'installazione sui tetti e anche sui parcheggi dell'Università di circa 47.000 metri quadrati di pannelli solari fotovoltaici suddivisi su 10 impianti per erogare circa una potenza globale di 2.500 kW di picco. Ci spiega meglio qual è questo sistema di spegnimento intelligente del sistema di illuminazione dei computer? Ci spiega come funzionerà? Sì, allora il contratto prevede il miglioramento di tutto il controllo e della manutenzione dei servizi energetici. Questo, oltre a essere fatto con del personale qualificato, utilizzerà dei sistemi informatici di monitoraggio di tutti i siti per l'aumento appunto dell'efficienza, utilizzando appunto dei sistemi di controllo a distanza che consentiranno di avere la visione di tutte le apparecchiature che consumano energia e per consentire appunto un utilizzo ottimale degli stessi, che dovrà ovviamente portare a un risparmio importante. Ovviamente questo discorso sarà integrato con tutta una serie di apparecchiature che vanno dall'installazione di rivelatori a raggi infrarossi per individuare presenze, il discorso per quanto riguarda i rilevatori dell'apertura delle finestre, sistemi di regolazione sulle cariche elettriche dei climatizzatori, installazione, come dicevo prima, di lampade a LED a basso consumo con una migliore efficacia e una maggiore durata, sistemi di regolazione che controllano appunto il discorso dell'illuminazione. Tutto questo sarà corredato da un servizio con personale altamente qualificato e un call center dedicato in caso di emergenza 24 ore su 24 per offrire un servizio completo di alto gamma di qualità di servizi. Respiro. Bentornati a Respiro, io sono Cristina Carpinelli. Allora, in questa puntata, dicevamo, stiamo parlando di energia, di risparmio a questa collegato. Abbiamo visto che a livello nazionale si stanno muovendo le cose, si stanno firmando accordi anche per esportare nostre conoscenze all'estero e viceversa far entrare gli stranieri in questo settore in Italia. A questo punto andiamo a vedere nel locale cosa avviene. Ad esempio, nell'area tra Como, Canton Ticino e Varese sta nascendo un vero e proprio distretto per le tecnologie e materiali per l'efficienza energetica, una roccaforte che promuove le rinnovabili ed è sostenuta dalla ricerca del Politecnico di Milano. Il professor Enrico Cagno segue il progetto ed è professore al Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano. È un progetto finanziato dalla Comunità Europea rivolto alle aziende di piccola e media dimensione del distretto dell'Insubria, quindi Como, Varese e Canton Ticino, in cui la Camera di Commercio, il Politecnico e la Politecnico Milano e la Fondazione, assieme a API Fervizi e CentroCot, forniscono gratuitamente alle aziende la possibilità di avere un check-up energetico del loro sistema produttivo e dell'edificio, dell'involucro entro cui questo è installato. Ecco, quindi, come avviene questo check-up? Noi effettuiamo delle visite con alcuni nostri addetti e attraverso una metodologia che è molto semplice, anche se molto efficace, effettuiamo alcune domande, quindi chiediamo essenzialmente dati sulle bollette, sui consumi energetici. Il tempo che richiediamo è molto ridotto, nel senso che non portiamo via il prezioso tempo dell'imprenditore, non più di mezza giornata di tempo, e riusciamo ad avere una fotografia abbastanza precisa di tutti gli interventi, dando anche una stima dei costi e degli eventuali ricavi che l'imprenditore potrà avere applicando questi interventi. Ecco, voi avete già una casistica, siete già operativi, no? Avete già cominciato questo lavoro di monitoraggio, se si può definire così? Allora, il progetto ha aperto il bando per avere questi check-up energetici, aprirà il bando il 4 maggio e chiuderà il 29. Ah, quindi ancora ci sono, ci sono 140 posti disponibili, questa prima tranche, e in effetti comunque la metodologia è già attiva, in quanto noi come Politecnico l'abbiamo già applicata ampiamente, soprattutto nella regione Lombardia, su diciamo 200 piccole e medie imprese, per cui è già abbastanza consolidata. Quali sono gli interventi che normalmente poi alla fine consigliate? Allora, dipende da settore e settore, quindi varia notevolmente, però tendenzialmente alla fine vengono dati un ampio spettro di interventi che l'imprenditore, dentro cui l'imprenditore può scegliere. Naturalmente l'energia non è il primo problema dell'imprenditore, il solo problema dell'imprenditore. Per cui di solito noi diamo una serie di interventi entro cui l'imprenditore può scegliere. Normalmente, andando ad esempio per le piccole imprese, normalmente si consigliano proprio per il periodo interventi che abbiano dei ritorni molto veloci. Quindi essenzialmente sono interventi di ripristino delle condizioni ottimali della produzione, ovvero di piccole sostituzioni. Ultimamente siamo su questi livelli qua. Quindi agite sui sistemi produttivi innanzitutto, e invece sul fronte energetico diceva c'è meno sensibilità? No, sull'involucro, invece, quindi sull'edificio, invece si fa un'analisi della struttura, velocemente, quindi sia dei serramenti sia della coibentazione generale, e eventualmente questi sono interventi un pochino più pesanti naturalmente, ma che danno risultati notevoli dal punto di vista del risparmio energetico. Ecco, secondo lei, dal suo osservatorio, i tempi sono maturi per avere una classe imprenditoriale un po' più illuminata appunto sui temi del risparmio energetico e del risparmio in generale? Assolutamente sì, nel senso, in questo allora, c'è una cultura che sta crescendo molto velocemente. D'altra parte c'è il costo dell'energia e il costo della produzione, che da questo punto si sta dando una mano, perché costando sempre più l'energia, e entro breve torneremo sui livelli di qualche mese fa, e naturalmente c'è un'attenzione sempre maggiore. Il secondo obiettivo che abbiamo su questo progetto è quello, quindi dopo aver fatto questi check-up energetici, quello di fornire anche una risposta, quindi creare un network di aziende che possano fornire soluzioni tutti gli interventi energetici. Per cui la seconda parte del progetto, che quindi prenderà piede un pochino più là nel tempo, quindi partirà tra 6 mesi diciamo, sarà quello di creare un marchio Energy Kit di aziende di piccole e medie dimensioni che possano fornire sul territorio soluzioni per l'efficienza energetica. Che questa è poi una cosa che sta avendo parecchio successo anche nell'architettura, mi sembra di assolutamente capire. Assolutamente sì. Infatti noi stiamo prendendo anche tutti i contatti in modo da poter sfruttare tutta l'esperienza, sia Casa Clima, in qualche modo è il referenza da un punto di vista dell'architettura civile, noi in effetti stiamo cercando di creare qualcosa di analogo per l'architettura industriale dal punto di vista degli involucri. Lo stesso discorso sarà fatto per i processi produttivi. Il progetto dunque prevede incentivi sia per la domanda che per l'offerta nel mercato dell'energia attraverso check-up energetici gratuiti per le imprese e la creazione di un network transfrontaliero per il risparmio energetico composto da imprese operanti nel settore delle rinnovabili. Per avere maggiori informazioni potete rivolgervi alla Camera di Commercio di Como. E adesso invece ci spostiamo a Caorle, in provincia di Venezia, dove è stato installato un impianto di pubblica illuminazione con lampade a tecnologia induzione già largamente diffuso negli Stati Uniti e in Canada, e Caorle di fatto è il primo comune d'Italia ad aver aderito a questo progetto. Con l'uso di questa tecnologia la bolletta elettrica di strade, autostrade, ospedali, porti, aeroporti, centri commerciali, ferrovie può essere ridotta del 37%, i costi di manutenzione invece vengono ridotti del 60%, ma come funziona e chi si occupa di installare questi impianti? Noi abbiamo raggiunto una società italiana, la Progesta, che è leader in questo settore. Allora abbiamo fatto una chiacchierata con Marco Boemio, che è amministratore unico della Progesta. Grazie alla disponibilità del sindaco di Caorle abbiamo portato una nuova tecnologia in visione e in dimostrazione, che è quella dell'induzione applicata all'illuminazione. Abbiamo potuto dimostrare quello che la Progesta fa nel settore del risparmio energetico oramai da anni. Abbiamo importato delle tecnologie americane che sono state sviluppate oramai da anni, specialmente nella zona della California, che è la patria delle innovazioni tecnologiche, specialmente in campo ambientale, e praticamente parliamo di induzione applicata all'illuminazione. Questo tipo di tecnologia normalmente è stata sempre un po' tralasciata, forse per mille motivi, diciamo, però è una tecnologia che permette di avere una vita utile delle lampade di circa 100.000 ore, quindi parliamo di 22 anni. È una tecnologia che garantisce un installato come potenza del 30% in meno rispetto a quello che c'è attualmente in giro, ed è una tecnologia con grandissimi gradi di affidabilità. Quindi è un qualcosa che sicuramente, secondo noi, è un nuovo filone da seguire per quanto riguarda il risparmio energetico, ed è un filone sul quale abbiamo puntato e stiamo puntando molto, anche dal punto di ricerca in Italia. Ecco, ci sono adesso, partendo da Caorle, degli altri paesi, comuni che stanno guardando con attenzione alle vostre proposte? Sicuramente sì, abbiamo adesso delle installazioni che faremo presso il comune di Jesolo, il comune di Chioggia, sicuramente il comune di Mestre. Stiamo vedendo un attimino di parlare per quanto riguarda degli impianti sperimentali su Milano insieme ad A2A. Stiamo facendo testare questo sistema ad Enel Sole, e oltretutto stiamo anche operando in ambito difesa. Ovviamente noi partiamo sempre da quelle che sono le esperienze americane, anche perché in Europa di questo tipo di tecnologia c'è pochissima conoscenza. In America, specialmente, come torno a dire, partendo dalla California, questo tipo di tecnologia è stata utilizzata in tutti i settori, dalle prigioni ai centri commerciali, agli aeroporti, a ovviamente situazioni stradali, in ambito di difesa, come le dicevo. Quindi la loro applicazione è un'applicazione totale. In Europa ovviamente stiamo partendo dall'anno zero, stiamo partendo da applicazioni che sono iniziate già in ambito della difesa piuttosto che dal civile, per approdare a quelle che sono adesso delle nuove sperimentazioni che andremo a fare in ambito commerciale. Sicuramente quello che significa induzione oggi è un abbattimento dei costi, e in maniera sostanziale, non in maniera teorica. Un abbattimento dei costi per quanto riguarda anche le problematiche connesse alla manutenzione, perché lei deve considerare che questo tipo di tecnologia ha un abbattimento dei costi di manutenzione circa il 60%. È tutto per questa puntata. Io vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo respiro@radio24.it. Buona giornata da Cristina Carpinelli.